Economia in pagina. Buongiorno, bentornati ai nostri ascoltatori. Parliamo di libri di economia. Oggi parliamo del libro Il Patto, cittadini e Stato, dal conflitto a una nuova civiltà fiscale. Gli autori sono Dino Pesole, che abbiamo con noi. Buongiorno Dino Pesole. Buongiorno. Dino Pesole è un giornalista del Sole 24 Ore, ma è anche un collaboratore di Radio 24, tiene una trasmissione, La Storia e la Memoria, che va in onda ogni sabato sera, una trasmissione, un documentario sui fatti del passato che ci aiutano a riflettere su quanto sta avvenendo. Dino Pesole ha scritto questo libro con Francesco Piu, consigliere del CNEL, ed è un libro che parla dei rapporti tra cittadini e Stato, tra noi e lo Stato, e dice dal conflitto a una nuova civiltà fiscale, quindi un'analisi attuale che è il conflitto e un auspicio, quello che si possa arrivare a una nuova civiltà fiscale, perché il tema fiscale è un po' un tema al centro soprattutto dei rapporti tra i cittadini e lo Stato, perché i cittadini le tasse le pagano, lo Stato dovrebbe offrire dei servizi, molto spesso non c'è questa simmetria tra il fatto di sentirsi dei servitori fedeli dello Stato, dei cittadini fedeli pagando le tasse, e lo Stato spesso non è fedele all'impegno di darci dei servizi efficienti. È questo in fondo quello che vuoi dire, Dino, con Il Patto? Sì, esattamente. Da un lato riscontriamo che lo Stato risulta sostanzialmente ancora nel rapporto che intrattiene tutti i giorni con noi cittadini, ispirato a una logica che è prevalentemente ancora burocratica, nonostante ci siano state molte riforme, soprattutto negli anni 90, che hanno in qualche modo tentato di modificare il rapporto, diciamo, conflittuale tra cittadini e Stato. Obiettivamente basta recarsi in un qualsiasi ufficio pubblico per riscontrarlo. D'altro canto però noi stessi cittadini non possiamo essere considerati esenti da responsabilità, poiché è ovvio che se non maturiamo noi stessi piena consapevolezza dei nostri diritti, non possiamo farli valere. Ed è per questo che nel libro noi proponiamo un patto. Diciamo, accertato che la situazione di conflitto esiste o comunque tendenzialmente è quella con cui abbiamo a che fare, bisogna uscire da questa logica. È la logica della contrapposizione frontale che poi caratterizza anche la vita politica, la vita istituzionale. E quindi in questo senso si propone di fare un passo in avanti. Il passo in avanti è quello di trovare un terreno di possibile conciliazione. E ovviamente la conciliazione non può che avvenire sul terreno più controverso, che è quello delle tasse. Ecco, sappiamo tutti, ecco come la questione. Certo, Innocenzo Cipolletta nella sua prefazione dice, illustra un po' la tesi di questo libro: se l'evasione fiscale è anche un fatto di emulazione, allora anche l'onestà potrebbe essere contagiosa. Infatti molti studi sostengono che si evadono le tasse anche perché gli altri lo fanno. Se noi non lo facessimo, ancora Innocenzo Cipolletta nella prefazione, saremmo doppiamente svantaggiati, perché pagheremmo anche le tasse degli altri e saremmo meno competitivi di quanti evadono. Allora possiamo tentare di invertire il sistema. Ecco, Dino Pesole, questo obiettivo è certamente un obiettivo ambizioso, quello di pensare appunto che possa essere contagiosa l'onestà, che possa essere contagioso il fatto di avere una coscienza morale, di dover pagare le tasse, però è anche un obiettivo necessario in questa fase per superare appunto la contrapposizione. Dino Pesole. Sì, guarda, noi in realtà riteniamo che il problema fondamentale sia trovare, diciamo, delle ragioni anche di convenienza. L'evasione fiscale, lo sappiamo tutti, è un male storico dell'Italia, oltre 100 miliardi l'anno di tasse sottratte a tassazione. Questo vuol dire che cosa? Vuol dire che le persone che pagano regolarmente le tasse sono costrette a subire un prelievo aggiuntivo anche per effetto del fatto che molti altri non le pagano. Allora il concetto è: se lo Stato comincia a diventare un po' più efficiente, e non è una chimera, è possibile, basta applicare le leggi che già esistono, e se d'altro canto comincia a svilupparsi nell'opinione pubblica una diversa coscienza civile e anche una consapevolezza del danno che viene apportato a tutti noi da quelli che evadono, perché adesso non è proprio così, anzi molto spesso gli evasori sono considerati con una sorta di malcelata ammirazione, quasi di invidia, ecco, loro l'hanno fatta franca mentre noi dobbiamo essere sottoposti a una tassazione enorme. Se a fronte di questo cambio che è possibile, lo Stato comincia però a dare dei segnali concreti, ed ecco qui il punto fondamentale, il segnale concreto che va dato è che le risorse che eventualmente poi si dovessero rendere disponibili nei prossimi anni, ovviamente è un progetto di lungo respiro, adesso siamo in una fase di crisi, è difficile immaginarlo, però insomma se si potesse prevedere una ripartizione del carico fiscale, certamente, questa è la nostra proposta, a trarne beneficio dovrebbero essere soprattutto i cittadini che le tasse le pagano tutte. Ecco, i cittadini dovrebbero fare un passo appunto di etico per pensare di essere appunto loro stessi, noi stessi, lo Stato, e quindi dover partecipare a questo Stato, ma anche lo Stato attualmente potrebbe fare, anzi dovrebbe fare un passo in avanti non avendo una presunzione di colpevolezza. Di solito un cittadino viene visto come un presunto evasore. Ecco, la strada degli accertamenti, la strada del fisco un po' oppressivo, forse andrebbe anche un po' cambiata, Dino Pesole. Sì, noi infatti proponiamo nel libro di cambiare completamente regime, cioè di lasciar perdere anche questa ricerca ossessiva, diciamo anche al perseguire gli errori formali, e di concentrarsi in controlli veri, sistematici sui contribuenti effettivamente a rischio. Non è difficile individuarli. Esistono mille strumenti, ad esempio se finalmente al di là dei proclami si riuscisse a incrociare i dati telematici di cui dispone l'amministrazione, l'archivio della SOGEI, dell'anagrafe tributaria, l'archivio dell'INPS, l'archivio dell'Agenzia delle Entrate, farli interagire, si comincerebbe a, come dire, individuare anche in modo più cogente e meno generalizzato i contribuenti a rischio. Una volta, come dire, dato un segnale che comunque lo Stato da questo punto di vista non persegue, diciamo, alla cieca, ma individua in modo, come dire, oculato gli evasori da perseguire, a questo punto si potrebbe attivare il percorso successivo. Noi puntiamo molto nel libro sul fatto che tutto il Paese debba cominciare però a fare un, come dire, un passo importante, uno scatto di civiltà, perché non è, se è intollerabile che uno Stato moderno e civile conviva con un'evasione da 100 miliardi l'anno, è altresì intollerabile che un Paese moderno come l'Italia continui a esercitare, a esprimere una così bassa coscienza civile. Qui ovviamente una coscienza civile, dicevo, che spesso si basa un po' sui pregiudizi, cioè per esempio nel libro è scritto molto chiaramente in Italia si pensa che il sistema sanitario non funzioni, invece il sistema sanitario italiano è, non dico un sistema modello, però un sistema che rispetto a quello di altri paesi offre delle prestazioni più o meno a tutti i cittadini, quindi con maggiore uguaglianza, con maggiore equità e anche con dei centri di eccellenza e anche con una spesa che non è superiore alla media di quelle degli altri paesi. Quindi anche noi cittadini dovremmo avere un po' meno pregiudizi su quanto offre lo Stato. Esattamente, noi non a caso nelle primissime pagine citiamo una notizia che venne data dall'ANSA nell'aprile del 2007, in cui si dava conto di un'indagine compiuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che collocava la sanità italiana addirittura ai primi posti nel mondo quanto a efficienza, capacità di offrire servizi. Eppure quella notizia praticamente passò quasi inosservata, mentre invece sappiamo bene che tutte le notizie quotidiane di malasanità abbondano sui giornali, e questo però fa sì che se solo quello è il prodotto che il normale cittadino si trova a dover commentare o comunque con il quale deve convivere, è chiaro che la percezione media sarà che tutto il sistema sanitario non funziona. Quindi qui, ecco, bisognerebbe che ci fosse appunto il patto, e anche che ognuno faccia la sua parte, i cittadini, lo Stato, anche gli organi di informazione. Cioè, insomma, noi siamo arrivati a un punto in cui obiettivamente il Paese vive una situazione critica. Ecco, indubbiamente in questo dobbiamo forse fare un po' di autocritica, anche noi giornalisti, forse certi eccessi sull'informazione negativa li abbiamo. Direi di sì, è la vecchia regola che una buona notizia non è mai una notizia. Ecco, grazie a Dino Pesore, abbiamo parlato del libro appunto di Dino Pesore e Francesco Pio, Il patto, cittadini e Stato dal conflitto a una nuova civiltà fiscale, edito dal Sole 24 Ore, a 130 pagine, ma c'è anche in termini del libro un glossario sui termini principali della finanza pubblica e anche un manuale di autodifesa del cittadino nei rapporti con la pubblica amministrazione. Ripeto, è un libro edito dal Sole 24 Ore, l'autore è Dino Pesore insieme a Francesco Pio. Grazie a quanti ci hanno ascoltato, grazie a Dino Pesore di essere stato con noi.